nova pena mi conven far versi e dar materia al ventesimo canto della prima canzon che di sommersi. Io era già disposto tutto quanto a riguardar nello scoperto fondo che si bagnava da un goscioso pianto e vidi genti per lo vallon tondo venir tacendo e lagrimando al passo che fanno le letanie in questo mondo. Come il viso mi scese in lor più basso, mirabilmente parve esser travolto ciascun tra il mento e il principio del casso, che dalle reni era tornato il volto, e indietro venirli convenia, perché il veder dinanzi era lor tolto. Forse per forza già di parlasia si travolse così alcun del tutto, ma io non vidi, né credo che sia. Se Dio ti lasci, lettor, prender frutto di tua lezione, or pensa per te stesso, com'io potea tener lo viso asciutto, quando la nostra imagine d'appresso vidi sì torta che il pianto degli occhi le natiche bagnava per lo fesso. Certo io piangea, poggiato ad un dirocchi del duro scoglio, sì che la mia scorta mi disse: ancor sei tu degli altri sciocchi? Qui vive la pietà quando è ben morta. Chi è più scelerato che colui che al giudizio divin compassion porta? Drizza la testa, drizza, e guarda cui s'aversa gli occhi di Teban la terra, perché gridava a tutti: dove lui anfierà o perché lasci la guerra? E non restò di ruinare a valle fino a Minosca ciascheduna afferra. Mira che ha fatto petto delle spalle, perché volse veder troppo davante, di rietro guarda e fa ritroso calle. Vedi Tiresia che mutò sembianti, quando di maschio femmina divenne, cangiandosi le membra tutte quante. E prima poi ribatterli convenne li due serpenti avolti con la verga che riavesse le maschile penne. Aronte quel che al ventre li s'aterga, che nei monti di lune dove ronca lo calarese che di sotto alberga, ebbe tra i bianchi marmi la spelonca per sua dimora, onde a guardar le stelle il mar non gli era la veduta tronca. E quella che ricuote le mamelle le trecce sciolte e a di là ogni pilosa pelle, manto fu che cercò per terre molte, poscia si pose là dove nacquio, onde un poco mi piace che m'ascolte. Poscia che il padre suo di vita uscio e venne serva la città di Baco, questa gran tempo per lo mondo gio. Suso in Italia bella giace un lago a piè dell'Alpe che serra Romagna sopra di ralli, che a nome Benaco. Per mille fonti credo più si bagna tra Garda e Valcamonica Appennino dell'acqua che nel detto lago stagna. Loco è nel mezzo là dove il Trentino pastore e quel da Brescia il Veronese segnar poria se fesse quel cammino. Sede Peschiera, bello e forte Arnese, la fronte già bresciani e bergamaschi, ove la ripa d'intorno più scese. Ivi conven che tutto quanto caschi, ciò che in grembo a Benaco starno un po' e fassi fiume giù per verdi paschi, tosto che l'acqua a correre mette co', non più Benaco, ma Mencio si chiama, fino al governo, dove cade un po', non molto accorso, che trova una lama nella qual si distende la impaluda e sol di state talora essere brama. Quindi passando la vergine cruda vide terra nel mezzo del pantano senza coltura ed abitanti nuda. Lì per fuggire ogni consorzio umano ristette con suoi servi a far sue arti e visse e vi lasciò suo corpo, vano. Gli uomini poi che intorno erano sparti s'accorsero a quel luogo che era forte per lo pantano che avea da tutte parti, per la città sopra quell'ossa morte e per colei che il luogo prima lesse, manto a l'appellar, senz'altra sorte. Già fuor le genti sue dentro più spesse, prima che la Mattia da Casalodi da Pinamonte inganno ricevesse. Però t'assenno che se tu mai odi originar la mia terra altrimenti, la verità nulla menzogna frodi. E io, maestro, i tuoi ragionamenti mi son sì certi e prendo un sì mia fede che gli altri mi serien carboni spenti. Ma dimmi della gente che procede, se tu ne vedi alcun degno di nota, che solo a ciò la mia mente rifiede. Allor mi disse quei che dalla gota porge la barba in, sulle spalle brune, fu quando Grecia fu di maschi vota, sì che appena rimase per le cune augure e diede il punto con Calcanta in Auride a tagliar la prima fune. Euripido e Benone così canta l'alta mia tragedia in alcun luogo. Bello sei tu, che lo sai tutto quanto. Quell'altro che nei fianchi è così poco, mica riscotto fu che veramente delle magiche frode seppe il gioco. Vedi Guido Bonatti, vedi Asdente, c'aver inteso al cuoio lo spago ora vorrebbe, ma tardi si pende. Vedi le triste che lasciarono l'ago, la scuola e il fuso, e fece il son divine, fece malie con erbe e con imago. Ma vieni ormai che già teme il confine, d'ambedue gli emisferi, e tocca l'onda sotto Sibilia, Caino e le spine, e già ier notte fu la luna tonda. Ben te dai ricordare che non ti nocque alcuna volta per la selva fonda. Sì, mi parlava e andavamo in troppo.